Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Le 21 e 2 minuti, una buona serata da Enrico Pagliarini, queste le notizie principali, i nostri titoli, il dibattito e lo scontro sulla legge elettorale, Alfano sostiene il governo ma annuncia la fine della collaborazione con il PD. Buoni dati sull'economia italiana, l'Istat aggiorna il dato sul PIL che cresce più delle attese, più 1,2% annuo. Trump annuncerà fra poco al mondo la nuova politica di Washington sul clima. Certo, l'addio agli accordi di Parigi. Intanto la Casa Bianca mette nuovi limiti ai visti. Verranno analizzati anche i social network. Un nomade fermato a Roma per la morte delle tre sorelle nell'incendio del camper a Centocelle era già stato arrestato per lo scippo alla ragazza cinese finita sotto il treno a Roma. Iniziamo questa nuova puntata, è quasi un venerdì per Effetto Notte, domani giornata di festa della Repubblica. Iniziamo dal dibattito e il confronto, ma per alcuni anche lo scontro sulla legge elettorale, che vede oggi i protagonisti il leader di Alternativa Popolare, Angelino Alfano, e naturalmente anche Matteo Renzi. Angelino Alfano si separa da Matteo Renzi e guarda la conquista del 5%. La mia collaborazione con il PD è conclusa, spiega il leader di Area Popolare, dopo che il segretario PD non retrocede sulla soglia di sbarramento alla legge elettorale. Così Alfano. Accettiamo la sfida della soglia al 5% e non presenteremo emendamenti per abbassare la soglia del 5%. Ma si apre un'altra questione ed è quella della tenuta del governo. Alfano spiega che una certa agitazione c'è da mesi e non smentisce le parole del deputato di AP Sergio Pizzolante, che accusa il segretario PD di voler far cadere il governo Gentiloni. Renzi chiede da febbraio a noi di far noi fuori Gentiloni. In cambio ha detto la legge elettorale scrivetela voi. Alfano insiste su Renzi. Il segretario del Partito Democratico, dopo aver fatto cadere il governo Letta e il governo Renzi, cioè il suo proprio governo, intende fare cadere anche il governo Gentiloni? Tutto questo dopo che la manovra economica passa all'esame della Camera, ma MDP ha già annunciato che non la voterà al Senato per protestare contro la norma sui voucher. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ed ecco la replica di Matteo Renzi ad Alfano, arrivata in serata. A me dispiace per il partito di Alfano, perché se sarà approvata la legge elettorale i piccoli partiti, quelli che stanno sotto il 5%, non rientreranno in Parlamento, quindi capisco il loro nervosismo. Quanto al governo da far cadere, io ho fatto cadere il mio di governo, mi sono dimesso perché avevamo perso il referendum tutti insieme e io mi sono dimesso. Quelli del partito di Alfano la parola dimissioni, lasciare la poltrona, non la conoscono benissimo, ma questo non vuol dire niente. L'importante è che Alfano faccia per questi restanti mesi bene il ministro degli esteri, in bocca al lupo a tutti, poi se fanno più del 5% evviva per loro. E così concludiamo la pagina politica con i commenti nel Movimento 5 Stelle, MDP e Forza Italia. Quello che emerge è uno scenario eversivo e inquietante. Dal Movimento 5 Stelle Di Maio commenta così i retroscena rivelati da alcuni esponenti di Alternativa Popolare. È insopportabile avere il paese sotto ricatto. Renzi non sa cosa sia la democrazia, è un personaggio pericoloso, attacca il vicepresidente della Camera. Scotto di MDP parla di manovre che lasciano allibiti. Se confermate, dice, sarebbe evidente che il principale fattore di destabilizzazione della legislatura è stato il PD. Forza Italia, intanto, con Brunetta chiede di andare ad elezioni anticipate subito dopo la legge elettorale. Una cosa è andare a votare per una crisi di governo perché la maggioranza collassa, crolla, perché non ce la fa più. E quindi questo dà un cattivo segnale in Europa ai mercati. Una cosa è andare a votare perché c'è una nuova legge elettorale, perché tutti i partiti vogliono andare a votare. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Chiusa la pagina politica italiana, ma chiusa per questa prima parte di Effetto Notte, poi torneremo con Elisabetta Fiorito a fare il punto sulla giornata. Parliamo invece di quello che succederà tra poco alla Casa Bianca, dove Donald Trump annuncerà l'addio dell'amministrazione americana agli accordi di Parigi sul clima. Secondo alcuni media americani che citano un documento distribuito al Congresso in cui si spiegano le decisioni di Trump, l'accordo negoziato da Obama, cioè l'accordo di Parigi, impone target non realistici per gli Stati Uniti nella riduzione delle emissioni, lasciando invece a paesi quali la Cina un lascia passare per anni. Queste sono alcune anticipazioni di alcuni media americani su quello che annuncerà tra poco Donald Trump. Abbiamo le immagini che ci arrivano da Washington, dove è una bella giornata di sole e le telecamere sono puntate sul piccolo podio davanti alla Casa Bianca, dove, dal quale parlerà Donald Trump tra poco. Intanto arriva la notizia che l'amministrazione Trump ha dato il via a controlli più severi sulla concessione dei visti, che richiedono anche informazioni sulla gestione dei social network negli ultimi 5 anni, informazioni biografiche risalenti agli ultimi 15 anni, tra cui email, numeri di telefono, indirizzi, lavori precedenti e attuali, dati su viaggi effettuati. Questo sta facendo la Casa Bianca per concedere visti. Ricordiamo che questa naturalmente è un'operazione che non riguarda i cittadini europei, visto che sono esenti dal visto, ma dà un po' il senso di quello che sta succedendo. A proposito di clima, di quello che parleremo tra poco, di quello che annuncerà Trump, c'è un nuovo caso, un nuovo Dieselgate, lo ha annunciato e ne ha parlato a Berlino il ministro dei trasporti tedesco Dobrindt, che parla dell'Audi che ha utilizzato un software illegale sulle emissioni. Secondo il ministro, il costruttore tedesco dovrà richiamare 24.000 automobili. Le anomalie riguardano modelli A8 e A7 con motori diesel V6 e V8. Il ministro ha detto che sono stati costruiti tra il 2009 e il 2013. Dobrindt ha spiegato di averne già discusso con Matthias Müller, il numero uno di Volkswagen, la casa madre di Audi. Lo scorso anno ricorderete che il Dieselgate è costato ad Audi 1,86 miliardi di euro. Dopo i dati positivi di ieri sull'occupazione, così torniamo all'Italia, parliamo dell'economia italiana, buone notizie arrivano sul fronte della crescita del prodotto interno lordo. L'Istat ha rivisto a sorpresa indeciso rialzo i dati sull'economia italiana, che nei primi 3 mesi dell'anno segna un più 0,4% rispetto al trimestre precedente e un più 1,2% su base annua. L'inaspettato balzo in avanti del PIL italiano è arrivato fino all'OCSE, con il segretario generale José Langel Gurría entusiasta per i risultati del nostro paese, ma che ci esorta a risolvere quanto prima le fragilità del sistema bancario italiano. Le prime indicazioni dell'Istat a metà maggio davano il PIL italiano sì in crescita, ma in maniera più debole. Il nuovo dato relativo al primo trimestre 2017 invece è il rialzo più forte dal 2010 e riporta il livello del prodotto interno lordo ai valori del secondo trimestre del 2012. La revisione a sorpresa è dovuta, spiegano dall'Istat, all'integrazione nei dati della buona performance dei servizi, che ottengono su base annua il rialzo maggiore. Se si aggiunge la disoccupazione, scesa all'11% ad aprile, ai minimi dal 2012, l'Italia pare volersi scrollare di dosso la fase negativa in cui ristagna. Il governo intanto incassa, con il premier Gentiloni che twitta: l'Italia cresce più del previsto e l'impegno continua, mentre Matteo Renzi su Facebook rivendica come gli ultimi dati economici siano figli degli anni di lavoro serio e rigoroso che abbiamo alle spalle. Adriano Palazzolo, Radio 24, il Sole 24 Ore. Abbiamo un'ultima ora che arriva dalle Filippine. Esplosioni e colpi d'arma da fuoco sono stati uditi in un resort nelle Filippine, non lontano dall'aeroporto di Manila. Rita Katz, che è la direttrice del SITE, il sito che monitora il jihadismo sul web, scrive in un tweet che un combattente filippino dell'ISIS, che riferisce da Marawi, dice che i soldati, i lupi solitari del califfo, sono responsabili dell'attacco al resort World Manila. Secondo le ultime informazioni ci sarebbero 25 feriti. Al momento queste sono le notizie che arrivano dalle Filippine. A proposito di cronaca, abbiamo delle notizie piuttosto importanti che arrivano da Roma, perché il nomade di 20 anni fermato per l'omicidio delle 3 sorelle morte nell'incendio del camper di Centocelle era già stato arrestato dalla polizia. Allora, ci spiega tutto Raffaella Calandra, che ci spiega soprattutto in quale situazione era già stato arrestato, perché una buona parte della notizia sta in questo. Raffaella, buonasera. Buonasera Enrico, a te e ai nostri ascoltatori. Sì, perché ora uno stesso filo di fatto unisce due tra le più terribili storie di cronaca della periferia romana, ossia la morte e l'uccisione di 3 bimbe rom e quella di una ragazzina cinese travolta da un treno, come forse i nostri ascoltatori ricorderanno. Un filo che porta il nome di Serif Seferovic, 20 anni, nomade, ora arrestato per il rogo di Centocelle e già fermato a febbraio per lo scippo di Zhang Yo, la studentessa travolta dai vagoni mentre rincorreva chi gli aveva rubato la borsetta. Due terribili storie, dicevamo. Seferovic è stato arrestato a Torino, individuato seguendo la sua compagna. Sarebbe stato lui, secondo gli investigatori, a lanciare il 10 maggio una bottiglia incendiaria contro il camper in cui dormivano Elisabeth, Francesca e Angelica Alilovic. E sempre lui, due mesi prima, aveva strappato, insieme ad altri due complici, la borsetta di Zhang Yo, poi investita dal treno. All'epoca, arrestato, aveva patteggiato 2 anni, ma subito era tornato in libertà perché incensurato. Libero quindi anche di poter rispondere col fuoco ai contrasti tra la sua famiglia e quella delle bimbe per la spartizione di gioielli e ori rubati. E proprio per queste tensioni, all'improvviso, l'intera famiglia Seferovic era sparita dal campo nomadi di Via Salviati a Roma, ma poi lì, secondo gli inquirenti, sarebbe tornato il giovane sceriff per realizzare la più crudele delle vendette. Ed infatti già proprio in quel campo nomadi conducevano da subito le indagini anche sulla morte e lo scippo ai danni della ragazzina cinese. Molto bene, grazie a Raffaella Calandra per questo quadro chiaro, anche se naturalmente succinto, in questa serata di Effetto Notte. Siamo ancora in attesa di Donald Trump e intanto noi rimaniamo a Roma e parliamo sempre di incendi, perché c'è una nuova emergenza per l'incendio di un deposito di un autodemolitore che ha costretto ad evacuare 3 palazzine nell'area di via Mattia Battistini. Una nube nera si è sollevata e decine sono state le chiamate ai vigili del fuoco, che naturalmente sono prontamente intervenuti. Nessuna persona è ferita o intossicata, secondo le ultime notizie, ed è stata attivata l'ARPA per i controlli previsti in questi casi. Parliamo adesso dello sciopero. Oggi all'Ilva di Taranto i lavoratori e i rappresentanti sindacali respingono con forza i numeri degli esuberi presentati nei piani da entrambe le cordate che vorrebbero rilevare l'azienda. All'Ilva di Taranto si è chiusa la prima giornata di sciopero indetta dai sindacati metalmeccanici per protestare contro gli esuberi annunciati dai piani delle due cordate candidatesi a rilevare l'azienda. Sono tagli pesanti perché nell'ipotesi ArcelorMittal ballano quasi 5.000 posti di lavoro e 6.400 invece in quella di Jindal. I sindacati dicono che su una forza lavoro di primo turno di circa 3.000 unità ha aderito allo sciopero il 55% del personale di esercizio e il 70% di quello delle manutenzioni. Da fonti aziendali si apprende invece che l'adesione è stata del 45% tra gli operai e del 35% la media di stabilimento. Adesso lunedì il consiglio di fabbrica si riunirà per programmare un piano di assemblee di reparto, non esclusi ulteriori scioperi, mentre per il futuro dell'Ilva chiusa la fase di informazione al Ministero dello Sviluppo Economico, nella quale il governo ha ribadito il suo impegno sia di vigilanza che di ammortizzatori sociali, si apre quella che dovrà portare i sindacati a negoziare e a rivedere punto per punto il piano della cordata ArcelorMittal, che dovrebbe essere quella aggiudicataria dell'Ilva, piano ritenuto carente dai sindacati. La trattativa dovrà chiudersi a fine settembre. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto. Adesso ci spostiamo a Bruxelles. Il Parlamento europeo ha dato il via libero definitivo alla proposta della Commissione che permetterà agli Stati membri di abbassare l'IVA sugli e-book e anche sui giornali digitali, allineandola con quella imposta ai libri cartacei e anche ai giornali cartacei. Manca solo l'approvazione formale del Consiglio europeo, che è in agenda il 16 giugno. Ricordiamo che l'Italia è stata apripista di questa novità, visto che già dal 1 gennaio 2015 aveva scelto di applicare l'IVA al 4% e non più al 22% per i libri digitali. E a Bruxelles è indirizzato il messaggio scritto oggi dal ministro dell'Economia Padoan. Il PIL italiano cresce a sorpresa, le elezioni sono all'orizzonte e il ministro dell'Economia, Piercarlo Padoan, invia in anticipo sui tempi una lettera a Bruxelles per annunciare che la correzione strutturale del deficit nel 2018 sarà pari allo 0,3% del prodotto interno lordo, inferiore allo 0,8% previsto e indicato finora nei documenti approvati dal Parlamento. Un taglio che equivarrebbe a uno sconto di circa 9 miliardi sulle misure da adottare e che, scrive Padoan al vicepresidente della Commissione Dombrovskis e al commissario Moscovici, consentirebbe all'Italia di proseguire nella politica di costante riduzione del deficit, stabilizzazione del debito e supporto alla crescita economica. L'Italia ha proposto una cifra che sembra ragionevole. Detto questo, la decisione finale avverrà nelle prossime settimane, dopo che la misura sarà discussa a livello di governi in Ecofin. Bruxelles fa sapere che risponderà al momento opportuno e valuterà la richiesta tenendo conto, dice il commissario agli affari economici per Moscovici, di tutti i dati più recenti. Per questo dobbiamo prenderci il tempo per vedere tutto, sottolinea Moscovici, e rispondere a Padoan nello spirito migliore, perché anche questa volta, assicura, la Commissione è al fianco dell'Italia. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Sono le 21, 16 minuti, 40 secondi, una breve pausa, informazioni da Strade e Autostrade. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ancora una buona serata, effetto notte su Radio 24, buonasera da Enrico Pagliarini, questi i nostri titoli, il dibattito e lo scontro sulla legge elettorale. Alfano sostiene il governo ma annuncia la fine della collaborazione con il Partito Democratico. Buoni dati sull'economia italiana, l'Istat aggiorna il dato sul prodotto interno lordo che cresce più delle attese, più 1,2% annuo. Trump annuncerà fra poco al mondo la nuova politica di Washington sul clima e certo l'addio agli accordi di Parigi. Intanto la Casa Bianca mette nuovi limiti ai visti, verranno analizzati anche i social network. Un nomade fermato per la morte delle tre sorelle nell'incendio del camper a Centocelle era già stato arrestato per lo scippo alla ragazza cinese finita sotto il treno a Roma. Beh, avevamo annunciato all'inizio alle 21 che Trump avrebbe annunciato fra poco, però Trump è in ritardo, sono le 21:19 minuti e io, Sergio Nava e Jacopo Giliberto siamo qui in studio. Buonasera Sergio. Ciao Enrico. Buonasera anche a Jacopo Giliberto, che è l'esperto di energia e in questo caso anche di clima del Sole 24 Ore. Jacopo, buonasera. Buonasera. Sergio, prima di tutto un commento sul ritardo, l'ennesimo ritardo di Donald Trump, visto che gli americani normalmente sono molto puntuali. Lui no. Lui no, ecco. No, lui no, l'ha già dimostrato a Taormina, dove insomma si è presentato sempre abbastanza dopo gli altri, ricordiamo soprattutto il secondo giorno di vertice, sabato mattina è arrivato mezz'ora dopo, quindi ormai in questo non ci stupisce più di tanto Donald Trump. Però io speravo che alle 21 questa sera avessimo una scaletta. Tu sei troppo preciso, purtroppo. Però possiamo già anticipare, perché i media americani hanno già anticipato quello che Trump dirà tra poco. Sì, esatto, la notizia in realtà già c'è, anche perché ormai a quanto pare innanzitutto la Casa Bianca sta in questi minuti informando gli alleati che Trump annuncerà, come previsto, il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo, dal patto globale sul clima di Parigi. Insomma, pessime notizie per l'Europa. C'è già anche un documento che starebbe circolando al Congresso nel quale si spiegano anche in parte i motivi, secondo Trump, per cui ritirarsi. L'accordo negoziato da Obama, dice Trump, impone target non realistici per gli Stati Uniti nella riduzione delle emissioni, lasciando a paesi quali la Cina un lasciapassare per anni e si aggiunge gli Stati Uniti sono già alla guida del mondo per la produzione di energia, non hanno bisogno di un accordo negativo che danneggia i lavoratori americani. Toni anche un po' da campagna elettorale, tra l'altro la Casa Bianca in queste anticipazioni ci sono, fa sapere che alla fine si sta di fatto compiendo la promessa fatta in campagna elettorale. Sì, un'ultima nota che è però importante, quello che succede domani a Bruxelles. Sì, esatto, perché Europa e Cina, che domani a Bruxelles avranno un summit, hanno già fatto sapere, prevedendo insomma l'esito di questo annuncio, che ribadiranno il loro sostegno all'accordo di Parigi, ma anche il sostegno al rafforzamento di questo accordo. Quindi diciamo siamo in un'epoca talmente bizzarra in cui la Cina sorpassa sul fronte ambientale, se vogliamo, almeno nelle buone intenzioni sul fronte ambientale, gli Stati Uniti. Quindi domani Europa e Cina di fatto mostreranno un asse ambientale totalmente inedito al mondo. Bene, grazie Sergio, buon lavoro, tu ci aspetti in redazione, quindi se ci saranno notizie sarai pronto. Vediamo a insomma studi. Alla Casa Bianca che sì. Tutto è pronto, ma ancora non è uscito Donald Trump. Tra l'altro non invidiamo le alcune decine di persone che sono sedute nel prato della Casa Bianca Steven al Bannon sole. Steven in prima fila, quindi sì. È la sua vittoria tra l'altro, sì. Il consigliere Steven Bannon. Certo, sono lì al sole che stanno aspettando. Allora adesso ci facciamo aiutare da Jacopo Giliberto per capire quello che succederà, perché a questo punto molti si domandano: ma se gli Stati Uniti, con la loro forza commerciale, l'autorevolezza, eccetera, eccetera, escono da questo accordo, che cosa succederà adesso? Bisogna vedere che cosa, Come si applicherà l'accordo? È la prima cosa più interessante da definire. L'accordo di Parigi, firmato nel dicembre del 2015 durante un summit dell'ONU sul clima, si chiamano COP, Conference of Parties, ed era la COP numero 21, durante quel summit si decise, tutti i paesi del mondo, 195 paesi del mondo, firmarono, tra cui anche gli Stati Uniti, firmarono questo accordo. Si decise di trattenere l'aumento della temperatura entro i due gradi. Come ottenere? Questo non era stato detto. Adesso bisogna applicarlo e molto dipende da come sarà applicato questo accordo. Per trattenere le emissioni di anidride carbonica, il gas accusato di scaldare il clima del mondo, bisogna ridurre o rendere più efficienti i consumi di energia, che sono condizionanti per la crescita industriale. E quindi potrebbero essere adottate nuove tecnologie, e in questo caso gli Stati Uniti potrebbero perdere un treno tecnologico industriale, oppure potrebbero essere messi dei freni alla produzione energetica, per cui andando su una forma di austerity, e questo, in questo caso, gli Stati Uniti, che non si darebbero quei freni, avrebbero un vantaggio. Ecco, sicuramente quello che dice questo documento che sta girando, che abbiamo citato, che Sergio Nava ci ha citato e anche io l'ho letto, che dice questo accordo impone target non realistici per gli Stati Uniti e lascia invece ampia libertà a paesi come la Cina. È vero? È molto interessante questo, lo osservavate anche un istante fa, ma è strana la posizione della Cina. In realtà è meno strana di quello che si pensi. La Cina ha un PIL pro capite inferiore di 5 volte a quello degli Stati Uniti, ha 3 volte e mezzo quello della Germania, e pur in queste condizioni ha investito nel 2015 il doppio degli Stati Uniti nelle tecnologie pulite. Cioè parliamo di 110 miliardi di dollari contro i 56 degli Stati Uniti. Sì, energie pulite, quindi vento, fotovoltaico, eccetera, eccetera. Allora, vuol dire che la Cina sta sviluppando, ormai ha deciso, è un paese che quando si muove con queste enormi capacità, questa inerzia potentissima, molto lenta a partire, ma quando parte molto difficile da fermare. Questa inerzia potentissima si muove verso queste nuove tecnologie. Stiamo molto attenti che se ci fosse uno scatto tecnologico, uno shock tecnologico, qualche cosa che si scoprisse tra poco tempo in campo energetico, chi godrà di questo shock tecnologico avrà un vantaggio competitivo molto interessante. Se venisse fuori la tecnologia, non so, nel trasporto dell'elettricità, per esempio, nella conservazione dell'energia, molto interessante. E la Cina sta giocando questa partita. Senti, faccio un'ultima domanda. Tu che conosci bene le dinamiche economiche, industriali di questo mondo dell'energia complicatissimo, può succedere che l'industria americana non tenga in considerazione delle scelte della Casa Bianca? Cioè, la Casa Bianca dice noi non usciamo da questo accordo, invece, cosa che tra l'altro hanno dimostrato ultimamente molte aziende americane che sono già partite sulle energie rinnovabili, tecnologie insomma d'avanguardia in questo settore, ecco, che ci sia una non sincronia tra l'industria e la Casa Bianca? Ma è già evidente da tempo. Penso a Google con tutte le fonti rinnovabili. Però ad esempio con Obama c'era più sintonia, sicuramente. Sicuramente. Certo. Sì. Attenzione però, non è che Obama sembra un forte ecologista, difensore del clima. In realtà le sue politiche si esercitavano su scala nazionale, perché i trattati internazionali sul clima non è mai, in due mandati di presidente, non li ha portati alla ratifica. Quindi molto come Trump, molto politiche nazionali entro i confini, poca propensione ad accogliere i grandi accordi internazionali. Grazie a Jacopo Giliberto, leggetelo sul Sole 24 Ore, non solo domani ma in tutti gli altri giorni. Buon lavoro. Perché non hai finito di lavorare, devi tornare su alla scrivania, giusto? Alle tastiere. Buona serata a tutti. Grazie, grazie. Sono le 21:27 minuti, noi siamo ancora in attesa, come del resto alcune decine di persone, beh, alcuni milioni di persone in generale in tutto il mondo, però ci sono alcune decine di persone che sono proprio davanti alla Casa Bianca, nel giardino della Casa Bianca, in questa giornata di sole cocente, quindi stanno aspettando che Donald Trump faccia il suo discorso, il suo annuncio. Abbiamo una breve pausa e poi riprendiamo con i titoli di Effetto Notte, poi parleremo di politica, andremo anche a Trento, perché a Trento è iniziato il Festival dell'Economia, dove Radio 24 è presente, ma vi racconteremo tutto tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 21:32 minuti, ancora una buona serata da Enrico Pagliarini. Carmelo Lauricella si occupa della parte tecnica, Christian Goldoni si trova in regia per aiutarci in questa serata di notizie. Queste le notizie principali, i nostri titoli, il dibattito e lo scontro sulla legge elettorale. Alfano sostiene il governo ma annuncia la fine della collaborazione con il Partito Democratico. Buoni dati sull'economia italiana, l'Istat aggiorna il dato sul prodotto interno lordo che cresce più delle attese, più 1,2% annuo. Trump annuncerà fra poco al mondo la nuova politica di Washington sul clima e certo l'addio... Ah, eccolo qua, allora sentiamolo perché in ritardo di 31 minuti... Eccolo qua, Donald Trump. And I will continue to give updates, anything happens during this period of time, but it is really... Very sad as to what's going on throughout the world with terror. Sta parlando di terrorismo e probabilmente di quello che sta succedendo nelle Filippine, dove ricordiamo c'è stato un attacco terroristico, 25 feriti al momento. Before we discuss the Paris Accord, I'd like to begin with an update on our tremendous, absolutely tremendous economic progress since Election Day. Allora, appena detto, prima di parlare dell'accordo di Parigi, vi aggiorno su quello che sta succedendo per i buoni risultati dell'economia americana, quindi vi faremo sentire tra poco invece quello che riguarda il clima, che è poi il centro del discorso di questa sera. Dicevo, i titoli, abbiamo parlato di Trump, e tra l'altro un'altra notizia che riguarda la Casa Bianca, che riguarda anche i visti, verranno analizzati anche i social network per emettere visti, una cosa che non riguarda i cittadini europei che sono esentati dal visto per andare negli Stati Uniti. Un'ultima notizia tra i nostri titoli, un nomade fermato per la morte delle tre sorelle nell'incendio del camper a Centocelle era già stato arrestato per lo scippo alla ragazza cinese finita poi sotto il treno a Roma. Adesso parliamo di politica italiana, mentre Donald Trump ci aggiorna gli americani sull'andamento dell'economia. Abbiamo i nostri problemi da dirimere. Elisabetta Fiorito, buonasera da Roma. Buonasera Enrico, non potevo fare che questo raffronto. Donald Trump parla di terrorismo, però poi alla fine poi parlerà di clima e qui si parla a nuora perché suocera intendo dire lo scontro tra Alfano e il PD è paradossale, però è uno scontro che sembra un po' di fine legislatura, Enrico. Certo, paradossale perché il governo regge, ma di fatto potrebbe anche non cadrà perché Alfano ha detto che sostiene il governo, ma se annuncia la fine della collaborazione con il PD, insomma, questa è la notizia del giorno, la spaccatura che in realtà Alfano direbbe io lo sostengo il governo Gentiloni, e Renzi che non lo sostiene lo vuole far cadere perché vuole andare alle urne in autunno. Io sono d'accordo, questa norma del 5%, no? La soglia di sbarramento, sicuramente io la supererò, ma è Renzi che vuole far cadere il governo Gentiloni. Allora sentiamo un attimo Alfano cosa dice. A me di quello che è accaduto in passato, siccome ritengo conclusa la mia collaborazione e la nostra collaborazione con il Partito Democratico, poco interessa. Capito? Lui dice io con il PD ho concluso la mia collaborazione, io voglio creare Alternativa Popolare, creare quest'area di centro per raggiungere e superare la soglia del 5%, che ricordiamo ai radioascoltatori è la soglia di sbarramento necessaria nella nuova legge elettorale affinché si possa entrare appunto alla Camera e al Senato. E Alfano ha ricevuto il 4.4 alle ultime elezioni, quindi sta sul limite. Lui ha cercato un ponte anche con Stefano Parisi, però Stefano Parisi a quanto pare nicchia. Insomma, c'è molto nervosismo in area popolare, e non ha detto io stacco la spina al governo, è Renzi che la vorrebbe staccare, però la mia collaborazione col PD è finita, e Renzi ha replicato così al TG1. A me dispiace per il partito di Alfano, perché se sarà approvata la legge elettorale i piccoli partiti, quelli che stanno sotto il 5%, non rientreranno in Parlamento, quindi capisco il loro nervosismo. Quanto al governo da far cadere, io ho fatto cadere il mio di governo, mi sono dimesso perché avevamo perso il referendum tutti insieme e io mi sono dimesso. Quelli del partito di Alfano la parola dimissioni, lasciare la poltrona, non la conoscono benissimo, ma questo non vuol dire niente. L'importante è che Alfano faccia per questi restanti mesi bene il ministro degli esteri, in bocca al lupo a tutti, poi se fanno più del 5% evviva per loro. Il problema, Enrico, è quanti sono questi restanti mesi? Per me si profila un voto in autunno prima della manovra economica, con l'accordo PD, Forza Italia, Movimento 5 Stelle su approssimativamente quello che è la legge elettorale, anche se poi Giafico ha detto attenzione, non è un accordo, insomma bisogna decidere poi i collegi, come verranno ripartiti, come verranno votati, chi saranno i capilista. Insomma, la stesura della legge elettorale è molto lunga. Di certo è, Renzi ha detto quota di sbarramento al 5%, Forza Italia lo stesso ha detto Movimento 5 Stelle, ma questo per Renzi vuol dire tagliare fuori forse Alfano, con cui potrebbe anche fare un accordo successivamente, ma sicuramente o probabilmente far fuori anche quelli che sono i fuoriusciti Dem, Bersani, certo, Speranza e D'Alema, che lui chiaramente non vorrebbe di nuovo in Parlamento. Ecco, questo poi è la sostanza, il resto sono chiacchiere, Enrico. Grazie Elisabetta Fiorito, una buona serata. Grazie a voi. Questo è Effetto Notte, siete all'ascolto di Radio 24, c'è Donald Trump che sta parlando, facciamolo sentire, sentiamo a che punto è arrivato. Including automobile jobs and the further decimation of vital American industries on which countless communities rely. Probabilmente sta ancora parlando dell'economia americana, comunque tra poco Sergio Nava ci aggiornerà su quello che eventualmente, se è già stato fatto un accenno all'accordo di Parigi. Andrea Ferro è a Trento, buonasera Andrea. Buonasera Enrico. Dunque tu sei a Trento per un motivo, perché oggi che cosa è successo, oggi pomeriggio? Oggi pomeriggio ha preso il via la 12ª edizione del Festival dell'Economia, un appuntamento ormai consueto per dibattere sui temi centrali dell'economia e della società in generale, anche con qualche risvolto sulla politica, e quest'anno il tema centrale è la salute disuguale, cioè sostanzialmente perché in certe zone del mondo, ma anche in certe parti d'Italia, le aspettative di vita sono diverse. Perché c'è questa divergenza, quali sono le cause, quali sono i motivi che devono essere rimossi, insomma è un quadro estremamente interessante e complesso che viene vivisezionato con cura da una serie di esperti in tutto. Ne contiamo addirittura 270 nell'ambito di 111 incontri, ci sono 200 giornalisti accreditati dall'Italia e dall'estero e pure dalla Cina, immancabilmente. Sì, se sei d'accordo, certo. Andrei su qualche dato, un dato che in qualche modo è stato anticipato da uno studio che poi verrà sviluppato e commentato meglio i prossimi giorni, in particolare domenica, e il dato centrale di questo studio è il seguente. Un uomo con la laurea può contare di vivere 5 anni in più rispetto a chi ha conseguito la licenza elementare. Per le donne il vantaggio nell'aspettativa di vita alla nascita si dimezza a 2,7 salute. Queste disuguaglianze relative alla salute sono anche all'origine, e chiaramente parliamo dell'Italia, del divario geografico tra l'Italia del centro-nord e quella del mezzogiorno. Nelle regioni del sud e delle isole si muore di più perché sono più numerose le persone di bassa posizione sociale, ma anche a parità di titolo di studio nelle regioni del sud e nelle isole le aspettative di vita di un laureato sono più basse rispetto a un laureato che abita nel centro-nord. Un dato che in qualche modo ci può consolare, anche se parlando di salute, Enrico, è tutto relativo: noi siamo messi meno peggio rispetto ad altri paesi, diciamo così, del mondo industrializzato e anche dell'Europa. In Francia questa forchetta è più ampia, 6,8, in Austria, poco distante da dove vi parlo, è oltre il 7. Perché? Ma perché la nostra sanità, al di là di tutto, al di là di quello che leggiamo, al di là di quello che raccontiamo, funziona meglio rispetto ad altri paesi, intendo chiaramente la sanità pubblica. E poi c'è la dieta mediterranea che ci aiuta, cioè è un regime alimentare più equilibrato che a livello preventivo agisce piuttosto efficacemente rispetto a determinate patologie, pensiamo in particolare a determinate patologie di carattere oncologico. Poi c'è una questione che riguarda la crisi, come la crisi può incidere nel così aggravare questa distanza tra le due fasce, diciamo così, di categorie di cui abbiamo parlato prima. Non c'è chiaramente un indicatore, perché la crisi è un fenomeno degli ultimi 10 anni. Un elemento in qualche modo al quale possiamo fare riferimento riguarda i disturbi mentali. Ad esempio, un disoccupato presenta disturbi mentali 2,5 volte rispetto ad un occupato, e chiaramente dopo gli anni bui della crisi, dal quale chiaramente non siamo ancora usciti, evidentemente il numero di chi dei senza lavoro è aumentato, e quindi inevitabilmente anche questo numero complessivo aumenterà. Certo. Bene, grazie ad Andrea Ferro, che rimarrà a Trento anche nei prossimi giorni assieme alle nostre trasmissioni, perché vi ricordo che ci saranno trasmissioni, servizi, approfondimenti in diretta nei prossimi giorni da Trento. Donald Trump, che sta ancora parlando, però noi vi abbiamo isolato il momento, i secondi in cui c'è l'annuncio ufficiale. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord Thank you Thank you Vabbè, molto breve e molto chiaro anche il messaggio degli applausi. Sergio Nava ci ha raggiunto perché ha seguito tutto questo discorso, che comunque è ancora in corso. Sì, discorso ancora in corso, come dici tu Enrico. Trump è stato molto chiaro, ha riservato tra virgolette anche una piccola sorpresa, perché ha detto: ci ritiriamo, però negozieremo o per entrare in questo accordo, quello di Parigi, sul clima di Parigi, ma alle nostre condizioni, oppure in un'altra intesa diversa. Se ci riusciremo, ottimo, se non ci riusciremo va bene uguale. Poche sorprese, a parte questa, dal discorso di Donald Trump, anche perché di fatto fino ad ora Trump ha stilato un elenco del perché questo accordo non va bene. Il senso è: gli altri peggiori inquinatori come Cina e India, in base all'accordo di Parigi, potranno fare quello che vogliono per tot altri anni a seconda del paese, noi invece veniamo puniti perché questo accordo ha dei costi per le nostre industrie. E qui ha, per esempio, Trump ha anche elencato le industrie andrebbero a perdere da qui al 2040: carta, cemento, ferro, acciaio, carbone, gas naturale, perché le nostre industrie avrebbero tutto a perdere, meno occupazione, meno industrie e anche quindi meno budget per le famiglie. Quindi a parte quella sorpresa di cui abbiamo detto all'inizio, per il resto tutto come previsto. Sì. Grazie Sergio Nava, buon lavoro. Grazie. In redazione. Sono le 21:45 minuti, tra poco parleremo anche di sport, ma in un modo abbastanza originale. Parleremo in particolar modo di Champions League. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Questi i titoli delle notizie principali. Il dibattito e lo scontro sulla legge elettorale. Alfano sostiene il governo ma annuncia la fine della collaborazione con il PD. Buoni dati sull'economia italiana. L'Istat aggiorna il dato sul PIL che cresce più delle attese, più 1,2% annuo. Trump annuncia l'addio all'accordo di Parigi. Un nomade fermato per la morte delle tre sorelle nell'incendio del camper a Centocelle era già stato arrestato per lo scippo alla ragazza cinese finita sotto il treno a Roma. Adesso parliamo di Champions League, ma lo facciamo in un modo diverso rispetto a quello che stiamo facendo in questi ultimi giorni, che faremo anche nei prossimi giorni, non solo dal punto di vista sportivo. Saluto Valentina Losa, che è amministratrice di un'azienda che si chiama GDE Bertoni. Buonasera e benvenuta a Radio 24. Buonasera Enrico, buonasera a tutti, grazie. Perché abbiamo invitato Valentina Losa? Lo capiamo dicendo subito che cosa fa la GDE Bertoni, che è un'azienda che ha più di 100 anni, giusto? Sì, sì, è un'azienda che è stata fondata dal mio bisnonno, poi è passata a mio nonno, al mio papà e poi a me. Noi produciamo trofei, coppe, medaglie, premiazioni in generale ad alto livello. Quando parliamo di trofei, parliamo di tutti quelli che vengono utilizzati per premiare gli sportivi, e quando diciamo trofei, nel vostro caso diciamo i principali del mondo, non solo la Coppa dei Campioni, ma anche un sacco di altre coppe famose. Sì, la stessa Coppa del Mondo della FIFA, la Coppa dei Campioni, l'Europa League, la Super Competition sono tra le nostre produzioni più importanti. L'azienda di cui stiamo parlando, GDE Bertoni, è vicino a Milano, pochi chilometri da Milano, Paderno Dugnano, made in Italy, ed è un'azienda artigianale, immagino. Sì, sì, noi facciamo tutto quanto ancora alla vecchia maniera, i trofei sono fatti tutti quanti a mano, non abbiamo grandi macchinari, o comunque i macchinari che ci sono non lavorano da soli ma vengono sempre utilizzati grazie all'uomo, quindi comunque c'è sempre la componente artistica e artigiana nella nostra produzione. Il design e la forma della Coppa dei Campioni è noto quasi a tutti, ma raccontaci qualche cosa in più, cioè di che cosa è fatta, come si fa a farla anche. Allora, la Coppa dei Campioni ha una lavorazione molto lunga, ci vogliono quasi 3 mesi per produrla completamente. La Coppa originale, che poi rimane in possesso della UEFA, è fatta in argento, e si distingue dalle altre perché il suo interno è dorato e all'esterno dietro ci sono le incisioni di tutte le squadre che l'hanno vinta, mentre invece le repliche che vengono date ogni anno alle squadre vincitrici sono in ottone argentato, l'interno della coppa è argentato anch'esso e dietro c'è scritto Vainqueur e l'anno, che significa vincitore. Quest'anno ci sarà scritto Vainqueur 2017 e poi viene data appunto alle squadre che la vincono. Tutta la coppa è fatta a mano, ci sono vari processi e vari pezzi che vengono costruiti e assemblati insieme. Il piede, che è la parte sotto, poi viene fatta la tazza, che è la parte centrale, a cui viene unito il collo, e poi soprattutto ci sono le mitiche grandi orecchie che vengono tagliate, formate, cesellate totalmente a mano, e sono il lavoro più lungo e complicato di tutta la coppa. Quanto tempo ci si impiega a fare questa coppa? Circa dall'inizio alla fine sono circa 3 mesi più o meno di lavorazione. E voi l'avete già consegnata, immagino. Sì, sì, l'abbiamo già consegnata, è pronta, lucida. La fattura chi la staccate? Alla UEFA? Alla UEFA. Paga la UEFA? Paga la UEFA. Ma quanto costa una cosa del genere? Non si può dire, però no. Parliamo di migliaia di euro, immagino. Sì, sì, sì, anche comunque ha un bel valore. Sì, sì, sì. Allora, ricordiamo che oggi si chiama Champions League e non Coppa dei Campioni, però la conosciamo con quel nome. Altre coppe famose, abbiamo detto la Coppa del Mondo, quindi sì. Questa è un'altra. Quali altri trofei fate anche al di là delle coppe? Ma allora, noi forniamo le medaglie alle maggiori federazioni sportive, quindi la Federazione Internazionale di Pallavolo, la Federazione Internazionale di Nuoto. Per la Federazione Internazionale di Nuoto facciamo anche dei trofei e delle targhe di premiazione molto belli, trofei anche per la pallavolo, poi siamo fornitori del Comitato Internazionale Olimpico, il collare olimpico per esempio, che è la massima onorificenza sportiva, è stato da noi disegnato e prodotto. C'è qualche cosa di nuovo anche nel modo con cui producete, e alcuni dei trofei si rinnovano o la tradizione la fa da padrona, quindi di fatto continuate a fare cose anche simili al passato. Ma allora, in linea generale la tradizione la fa da padrona, poi è ovvio che comunque le nuove tecnologie spesso ci possono dare una mano, però poi alla fine della fiera si rimane sempre a lavorare in maniera artigiana. Infatti uno dei nostri problemi è quello che facciamo fatica a trovare dei giovani che abbiano le competenze proprio manuali per fare quello che ci serve. Questo è un problema di altre aziende, però visto che siamo alla radio facciamo anche un annuncio. GDE Bertoni, immagino che qualche stagista per iniziare, magari qualche nuovo dipendente, lo possiate anche assumere forse. Noi siamo sempre aperti ai giovani soprattutto e a formare nuove leve, perché amiamo il nostro lavoro e per fortuna c'è, quindi assolutamente sì. A proposito del lavoro che c'è, avete dei competitor forti nel mondo o insomma è un mercato che riuscite a presidiare piuttosto bene? Ma fortunatamente abbiamo poca concorrenza, perché comunque ci siamo specializzati in maniera importante solo sulle premiazioni sportive di alta e altissima qualità. Facciamo poche cose che sono al di fuori delle premiazioni sportive, quindi avendo una specializzazione così settoriale, così di nicchia, è la nostra salvezza, perché non ci sono tanti competitor al nostro livello. Ovviamente ci sono altre aziende che sono in grado di fare buoni trofei e buone manifatture, però per fortuna al momento siamo, posso dire, quasi unici. Molto bene, siamo orgogliosi visto che tutto ciò è made in Italy. Un'ultima domanda, Valentina. Quando queste coppe poi finiscono nelle mani dei vincitori, le si vedono insomma alla fine di queste o partite di calcio o altre manifestazioni sportive, tu e le persone che fanno parte della tua azienda vi emozionate ancora o ormai siete abituati, quindi ci fate poco caso? No, parlo per tutti, ci emozioniamo tutti da morire, ma proprio ci sentiamo lì. Perché è come se ci fossimo noi, a me sembra, queste coppe sono nate prima di me, quando sono nata io c'erano già, e io so come sono fatte dall'inizio alla fine, so come sono create, e le abbiamo coccolate, le abbiamo lucidate, ci emozioniamo tantissimo. Poi appunto, essendo un simbolo di vittoria che è stato raggiunto con sudore e fatica, è ancora più bello sapere che... Sì. Che sono lì, insomma, quello che rappresentano e tutto quanto. Quindi Senta, no, come ti emozionati. Mi fa piacere questo. Come dicevo, per quanto mi riguarda, la mia era l'ultima domanda, però dalla regia mi vogliono che io aggiunga una domanda. Farai il tifo per qualche squadra per la finale di Champions League? Io sono milanista, però ovviamente io tifo sempre per l'Italia, quindi vabbè, abbiamo capito. Ecco. Bene, Valentina, grazie per essere stata con noi, una buona serata e buon lavoro naturalmente. Grazie, anche a voi, ciao. Mancano pochi minuti alle 10, tra poco daremo la linea alla pubblicità, poi i titoli di Effetto Notte. Vi do un aggiornamento su quello che Donald Trump ha annunciato l'addio agli accordi di Parigi, all'accordo sul clima, ma ha aggiunto, e questa sicuramente è una novità, gli Stati Uniti cominceranno a negoziare un nuovo accordo sul clima. Ha detto Trump, vogliamo un accordo che sia giusto, se ci riusciremo benissimo, altrimenti pazienza. Questa è la novità. Obama ovviamente ha detto che si tratta di una brutta mossa, quella di Trump, perché rifiuta il futuro. Ci risentiamo tra pochi minuti per i titoli e le notizie principali.